è l'epopea di Giorgio e un po' è stata anche l'epopea nostra, nel senso che noi abbiamo conosciuto Giorgio un po' di anni fa e siamo subito diventati amici con lui, per cui si è creato subito un rapporto molto intimo. Lui ha incominciato a raccontarci un po' le sue storie africane e ha tirato fuori un sacco di foto. Lui faceva anche l'operatore e c'aveva anche un sacco di documenti video, per cui noi ci siamo trovati di fronte a questo scrigno delle meraviglie e abbiamo iniziato a pensare di fare un documentario su di lui. Poi la cosa ha travalicato, nel senso che abbiamo fatto con lui una radio pirata qua a Livorno, siamo andati poi addirittura in Africa a fare una radio al confine tra Senegal, Mauritania e Mali, dedicata a lui insieme al suo assistente, allievo, anzi a noi piace chiamarlo quasi discepolo, nel senso che Giorgio abbiamo scoperto che in Africa veniva considerato il messia della radio in un qualche modo. Più che un documentario è stata proprio una vera e propria esperienza di vita, non so come dire, conoscere Giorgio è stato veramente qualcosa di importante, sia per me che per Federico che ha fatto il film insieme a noi. Per chi non sapesse la storia di Giorgio, appunto, da ex operaio sindacalista è diventato, come tanti nella stagione delle radio libere, un tecnico autodidatta e poi ha installato più di 500 emittenti FM proprio in Africa. Il nome del documentario da cosa deriva? Allora, Radio Soler era l'azienda che Giorgio ha fondato prima in Mali, poi in Senegal e successivamente in Togo, con la quale ha proprio costruito, cioè nel senso, Giorgio non parlava la radio, per capirci, cioè le radio le costruiva e ne ha costruite più di 500, un po' in tutto il continente, diciamo la zona del Sahel è quella dove ha operato di più, però poi è stato anche in Mozambico, in Niger, in Sudafrica, in Eritrea, anzi la prima, per dire la verità, è stata proprio una radio in Eritrea. Quindi Radio Soler è un po' la storia sua e anche un po' la storia di Abdraman e tutti quelli che hanno lavorato insieme a lui, e quindi Radio Soler è proprio il nome che li comprende tutti in qualche modo. Lolli ha dimostrato, insomma, che la radio può essere utilizzata anche per scopi sociali, quindi non solo per fare intrattenimento, informazione eccetera, ma proprio con un'ottica diversa. Sì, questa è una cosa che abbiamo proprio anche scoperto noi strada facendo, nel senso che la radio in Africa ha un valore un po' diverso dalla radio come ormai siamo abituati ad intenderla noi, cioè ha un valore più puro di comunicazione vera e propria, nel senso che tante delle radio che ha fatto Giorgio, radio comunitarie, quelli che ha fatto lui a volte erano radio per dei villaggi sperduti che servivano proprio come comunicazione diretta, cioè per questioni sanitarie, questioni legate per esempio all'agricoltura, a tutta una serie di cose vitali per quelle comunità, quindi quelle radio lì diventavano proprio il fulcro della comunicazione della comunità in un qualche modo, che si riuniva intorno al pilone della radio e con quella poteva comunicare col resto del mondo, perché se no, cioè, magari ci volevano due giorni per arrivare nel posto, diciamo, dove dovevano andare, invece in quel modo riuscivano a comunicare, insomma. Si parla di Africa, hai parlato anche di Livorno, fammi fare una domanda un po' campanilista, perché appunto Giorgio Lolli era bolognese, e secondo te che cos'ha questa città di particolare, visto che Marconi è nato qui, c'è stata Radio Alice, ci sono state... È vero, ma non solo, per esempio, conoscendo Giorgio abbiamo conosciuto anche tutto, diciamo, un sottobosco di sia aziende vere e proprie, che sono poi le più importanti, che fanno componentistica per la radio, dai trasmettitori alle antenne, che è tutto un sottobosco proprio del bolognese o comunque della zona qua dell'Emilia, in un qualche modo. In più l'Emilia è la patria in un qualche modo dei ciappinari, cioè, e Giorgio era un ciappinaro, nel senso, lui si definiva un tecnico tra l'altro autodidatta, perché come detto prima lui nasce operaio tornitore alla Carpigiani e poi impara studiando di notte sulle riviste eccetera eccetera l'arte della radiofonia in un qualche modo, per cui, cioè, in tutto e per tutto Giorgio era un ciappinaro, cioè uno che le cose gli piaceva farle, impararle e trasmetterle anche, perché un'altra cosa importante dell'epopea, come l'ha chiamata giustamente te, di Giorgio, è che tutto questo lui non lo teneva per sé, ha sempre cercato di trasmetterlo in primis ai ragazzi che lavoravano con lui, che adesso continuano a lavorare in Africa per conto loro, hanno aziende per conto loro, e in qualche modo gli ha cambiato la vita. musica, e poi addirittura messo su delle scuole per radiotecnici gratuite, ovviamente, perché diceva: se io vado a fare una radio in mezzo al deserto e gli si rompe qualcosa, come fanno? Devono per forza chiamarmi me, magari ci vuole 3 giorni per arrivare qua per avere una cosa che magari invece riuscirebbero a sistemarsi per conto proprio. Per cui ha messo su delle scuole, ha insegnato, ha formato migliaia di tecnici radiofonici africani. Giorgio è venuto a mancare nel 2023. Con che emozione presenterete poi il vostro documentario venerdì prossimo? Anche proprio dal punto di vista umano, cioè non è stato solo girare un documentario per me e Federico questa esperienza, è stato qualcosa di più. Con Giorgio abbiamo condiviso davvero un sacco di cose, e lui ci ha trasmesso un po' di quella malattia che te conoscerai bene, che è un po' la malattia di chi ascolta e chi gli piace la radio, insomma. Per cui sarà un'emozione grossa, anche perché sono tanti anni che stiamo dietro all'idea del documentario, al progetto, e questo ha fatto sì anche che si creasse tutto un humus di persone che hanno conosciuto Giorgio e che hanno partecipato in qualche modo a questo progetto, proprio perché si erano affezionati alla figura di Giorgio, insomma. La visione sarà il venerdì. Il sabato faremo un piccolo talk all'Esprit Nouveau, alla fiera, e si parlerà di radio comunitaria e radiofonia d'assalto, e quindi si continuerà a parlare di Giorgio. Ci saranno degli ascolti di musica africana, chi volesse partecipare è ben accetto, gli amanti della radio sono tutti benvenuti.